Ricordate, concentratevi su come si passa da 1 a 4 e poi da 4 a 16. Quale operazione li connette? È una somma? O è più probabile che si tratti di una moltiplicazione?